Venerdì 22 aprile si inaugura negli spazi del Teatro Navile la mostra Out of the Dark. Siamo qui per parlarne proprio con l'autore, il fotografo Alessandro Negrini. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, io Alessandro partirei un po' dallo spazio che tu hai scelto per il ritorno nella tua città natale, no? Che è Bologna, cioè gli spazi del Teatro Navile. Come mai questa scelta così particolare di una mostra fotografica all'interno del Teatro Navile? Allora, la scelta inizialmente per una mostra fotografica cade spesso su locali non necessariamente adatti per le esposizioni, quindi può essere il bar, può essere qualsiasi altro tipo di luogo, diciamo, non deputato alle mostre, oppure alla galleria d'arte nella sua, diciamo, forma più tradizionale. Io vengo da una formazione anche legata al teatro, ho lavorato a teatro a Bologna, ritengo che il teatro sia uno spazio non solo per le arti performative, ma anche per delle esposizioni dove soprattutto questo tipo di mostra possono sposarsi molto bene, nel senso che se prendiamo i soggetti, per esempio, delle foto che porterò in mostra al Teatro del Navile, non sono foto in posa, sono foto dove i soggetti si muovono all'interno di uno spazio molto stretto, con una luce molto, molto basica, e fanno una loro, diciamo, performance di movimento, fanno un valzer, ecco, all'interno di, possiamo usare questa parola, proprio per spiegare come queste persone si ritrovano un po' costrette sotto questa luce, questo bianco e nero molto contrastato, e quindi parliamo sempre di una fotografia che non è statica, quindi il teatro diventa il luogo deputato per eccellenza dove si può unire sia le performing art allo stato, diciamo, da palcoscenico, e sia invece delle arti performative fissate su foglio di carta fotografica. Saranno esposti 15 scatti, come ci raccontavi anche tu, tutti in bianco e nero, tra l'altro realizzati in questi ultimi anni di pandemia. Quindi ti volevo chiedere com'è avvenuto il processo creativo proprio durante una situazione sicuramente così critica come appunto è la pandemia. Durante questi mesi, questi anni di pandemia, per tutti quelli che facevano fotografia diventava molto difficile l'incontro e l'organizzazione di shooting fotografici. Nel mio caso, nel nostro caso, io e mia moglie siamo in simbiosi nell'ambito fotografico, quindi lei fa da modella, fa la fotografa, fa tutte quelle attività, la stylist, la truccatrice, sceglie gli outfit, sceglie le location, ha iniziato a scattare prima di me, quindi è molto preparato in questo campo. Sia io che mia moglie ci trovavamo ad avere fondamentalmente amici con cui non potevamo, diciamo, condividere troppo gli spazi comuni, ci trovavamo a essere vincolati alle regole della pandemia, e spesso e volentieri non si riusciva ad avere un vero e proprio set fotografico o luogo dove poter fare fotografia in maniera libera e serena. E quindi da questa situazione mi sono, tra virgolette, inventato, ma non ha inventato niente nessuno, questa luce basica dall'alto e questo telo nero dove le persone fondamentalmente si sedevano sotto questa luce, e in una posa legata comunque al movimento. Io da lontano, perché c'è comunque una buona distanza tra il set e la macchina che scatta, riuscivo ad avere dei risultati anche se non necessariamente i risultati, diciamo, di glamour piuttosto che di ritratto, erano risultati più legati a un particolare set fotografico. La scelta di questo tema, di questo tipo di fotografia, è nata proprio dal fatto che ci trovavamo tutti i giorni a essere legati a guarda la televisione, leggi un messaggio, leggi un post, e quindi a un certo punto diventava veramente, da parte delle persone con cui interagivo, diventava difficile da gestire, perché comunque queste persone avevano tutte un approccio diverso a questa problematica della pandemia. Io ho cercato di dare un minimo comune denominatore a questo tipo di fotografia, portandola all'interno di uno scatto semplicissimo e dove ognuno poteva esprimere come voleva una posizione, uno sguardo, una chiusura, un'apertura a questo tipo di tema. La cosa è iniziata con le modelle che conoscevo qua della zona e poi si è allargata praticamente a tantissime figure molto molto diverse tra loro. C'erano le titolari d'azienda, c'erano professionisti, c'era l'amico o l'amica della porta accanto, c'erano coppie di fidanzati, coppie sposate da tanti anni che volevano comunque provare a fare questo tipo di scatto. Siamo arrivati ad avere tantissimo materiale, veramente tantissimo. La scelta di portare 15 scatti a Bologna è stata molto molto molto difficile da fare. Ho scelto, proprio per dare più visibilità possibile, tutti i scatti di coppia. In uno scatto ci sono anche 5 persone sotto una luce ed è molto difficile riuscire a illuminare tutto, infatti non tutto è illuminato in quel caso. In molte foto dove di coppia c'è anche mia moglie, che si chiama Claudia, ma sui social si chiama Agatha Deville, io sui social mi chiamo Alex Nero Foto, e quindi insomma abbiamo trovato questo tema, questo argomento che potesse essere anche una metafora, non solo nel far vedere come si stava all'interno dei 2 anni di pandemia, ma anche come si poteva invocare un'uscita dalle tenebre, chiaramente mantenendo il genere che io prediligo, che è quello del nudo artistico, piuttosto che del ritratto. Perfetto Alessandro, insomma tra l'altro la mostra rimarrà visibile fino al 25 aprile, quindi ci sarà qualche giorno per andarla a vedere, ricordo ancora una volta, negli spazi del Teatro Navile, per cui invitiamo veramente tutte e tutti a andare a visitare la mostra Out of the Dark. Io ti ringrazio veramente Alessandro per avercela raccontata e in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie mille, di nuovo buona giornata a tutti.